volte sei rimasto solo in un momento della tua paura e quasi ti lasciavi abbandonare. Se ti giravi non c'era nessuno, nessuno. Sotto pietre di nostalgia, sono ferite che non si richiudono. Non penso più a nessuno.